Ed ecco la sigla di Maldestra, i senza sicura alla memoria, alle 12.27 di martedì 9 giugno 2009. Sono polvere, sono dolore, non ho più figli, non ho più amore, sono polvere la storia. Con un ritardo anche fuori dall'ordinario, andiamo ad iniziare la puntata odierna, una puntata che andrà a parlare, a raccontare un po' quanto si sta vedendo anche in queste ore in base ai risultati delle elezioni europee e di quanto si sta muovendo e agitando in Europa. Ma è così semplice, fa troppa paura. Una puntata in gran parte dedicata appunto a questo carrozzone elettorale che, come è sempre opportuno precisare da questi microfoni, non la stiamo facendo perché ci appassionino le sorti di questo o di quel partito, di qualsivoglia competizione elettorale, ma per capire appunto di fronte a che cosa ci stiamo andando a ritrovare. Con il mio viso, con il tuo sorriso. Ma che muoia la carne tra la rabbia e il silenzio. Non è importante, non fa poi così male. Che bruci i numeri incisi col fuoco. Faranno del fuoco la mia via per scappare. Ma quello che è stato, che ho visto, che ho perso, non posso lasciarlo con il corpo nel fuoco. Voglio che viva questo dolore infinito. Voglio che in cui vive non sia mai cancellato. Senza memoria, la vostra, chi sono io? Come fossi ancora vivo, ma io vivo non sono più, sono polvere, sono dolore, non ho più figli. Una puntata quindi, come dicevamo, che andrà a parlare prima d'Europa, mentre in un secondo momento cercheremo di concentrarci un po' di più su quanto si agita a casa nostra, su quali sono e in cosa si traducono le pulsioni xenofobe di casa nostra. E iniziamo però invece appunto con l'Europa, e iniziamo con una delle nostre voci più affezionate, che dovrebbe essere in collegamento telefonico. Ci senti? Sì, vi sento, buongiorno a tutti. Ok, buongiorno a te. Allora, io so che voi già avete cominciato a parlarne la scorsa settimana insieme all'altro redattore. Io a dire il vero non ero in studio e non vi ho neanche sentito, quindi manco possiamo fare il giochino di vedere quanto ci avete azzeccato a seconda di quello che avete detto. Quello che possiamo fare magari con te però è un riassunto e anche qualche riflessione, visto che queste elezioni di fatto mi sembra che in qualche modo ridisegnino la geografia del Parlamento europeo, no? E ci consegnino anche una rappresentanza in qualche modo inedita, sia per la varietà e anche proprio per la quantità della destra radicale europea che si trova a sedere adesso nel Parlamento europeo. Una destra che è avanzata in molti paesi europei, quelli dell'ex blocco sovietico, ma non soltanto, anche nelle socialdemocrazie nordiche, se non sbaglio c'è stato un risultato importante della destra radicale in Finlandia, come in Olanda o vabbè, ovviamente in Austria o anche in Inghilterra, dove tutto sommato finora elettoralmente il fenomeno era sempre stato molto marginale. Quindi, non so, noi quello che ti andiamo a chiedere è di aiutarci a raccontare un po' questo panorama di appunto questa nuova geografia del Parlamento europeo e dei nuovi razzisti che ci si siedono. e al tempo stesso di cercare di dare anche un anche un'interpretazione di quale può essere anche la spiegazione di come si è arrivati a questo risultato, dal momento che l'uscita a destra della crisi forse non è in qualche modo una spiegazione esaustiva, anche in virtù dell'estrema eterogeneità dei partiti che sono rappresentati adesso, che vanno dal laicismo islamofobo all'integralismo cattolico al appunto al populismo xenofobo e quant'altro. Io ti lascerei la parola per andarci un po' a raccontare. Sì, diciamo che quanto alle previsioni della scorsa trasmissione di Maldestra, purtroppo non eravamo stati, come dire, isolati, e quindi diciamo ci abbiamo preso come ci hanno preso un po' tutti, ma perché in realtà il voto fortemente a destra di queste elezioni europee era annunciato, e in questo caso l'annuncio ha detto molto di ciò che sarebbe poi accaduto realmente. Ma diciamo, come immagine, insomma, riassuntiva di come sono andate le cose, se potremmo definire, diciamo, un voto quasi europeo, quasi italiano, quello europeo, nel senso che in realtà l'Europa che esce dal voto di questo weekend è in realtà assomiglia molto all'Italia, nel senso che vince una destra che ha al suo interno dei germi populisti molto evidenti e che in ogni caso non ha nulla del vecchio blocco conservatore. A sinistra, faccio un inciso rapidissimo, si è soliti pensare le destre sono tutte destre, no? E il confine spesso è anche, diciamo, molto vicino, addirittura in casa nostra. Invece bisognerebbe cominciare a fare una qualche differenza sul fatto che l'Europa governata per decenni, per un mezzo secolo, da partiti di ispirazione sostanzialmente popolare o democristiana nel sud del continente, e in larga misura da partiti di ispirazione socialdemocratica nel nord o nell'estremo nord del continente, sta cambiando, e che quelle stesse forze conservatrici che un tempo avremmo immaginato essere appunto un modello più o meno internazionale della democrazia cristiana, hanno invece assunto il volto di forze come quella guidata da Silvio Berlusconi. Sappiamo che non si tratta soltanto di elementi simbolici, ma anche le politiche concrete che queste forze stanno facendo sono di natura molto diversa, che riguardano, diciamo, la riduzione dello Stato sociale, tu parlavi di crisi, del welfare, della capacità, diciamo, di aiutare in qualche modo i cittadini più deboli e quant'altro, che si tratti delle politiche in tema di sicurezza, immigrazione, identità nazionale. Faccio solo anche qui un esempio: durante la campagna elettorale il cancelliere tedesco Angela Merkel, che guida una coalizione di conservatori tradizionali, potremmo dire, cioè i cristiano sociali bavaresi, i cristiano democratici a livello nazionale, si è premurato di cercare di conquistare il voto di quei 700.000 cittadini turchi naturalizzati in Germania, che votano regolarmente in tutte le elezioni, e ha evitato qualunque riferimento allo shock di civiltà, allo scontro tra culture, perché quei cittadini turco-tedeschi sono a tutti gli effetti turco-tedeschi e possono essere perfino degli elettori conservatori. In Italia, a due riprese nell'ultimo mese di campagna elettorale, il Presidente del Consiglio ha detto prima che lui era decisamente contrario a un'Italia multiculturale, che poi il progetto di un'Italia pluriculturale, plurirazziale e quant'altro era quello della sinistra, fortemente osteggiato dalla coalizione da lui guidata. Come si vede evidentemente da questa piccola citazione, non siamo su elementi simbolici, siamo proprio su universi culturali differenti. Poi spesso le politiche si possono però assomigliare. Fatta questa pipposa premessa, per dire che in realtà il segnale grosso che arriva dall'Europa è che cresce la destra, diciamo, che siede all'interno del gruppo del Partito Popolare Europeo e che però ormai è completamente travisata dal punto di vista della propria simbologia, nel senso che per quanti democristiani vi siano ancora, l'elemento vincente è il modello di Berlusconi. L'UMP francese guidato da Sarkozy è sostanzialmente, lo sappiamo, un partito berlusconizzato perfino nello stile proprio del presidente francese. Inoltre il Popolo della Libertà italiano porta al suo interno gli eletti di Alleanza Nazionale, un partito che precedentemente era stato escluso dal gruppo dei popolari e che invece ora vi entra senza passare nessun esame, senza pagare dazio in alcun modo, e che comunque trasforma, fosse solo per quello, completamente l'identità di un partito di ispirazione democristiano che oggi si trova dentro, accanto agli eredi di Schumann e Adenauer, gli eredi di Giorgio Pisanò, Giorgio Almirante e alla lontana della Repubblica Sociale Italiana, ovviamente un'altra cosa. Per cui il problema vero di queste elezioni non è tanto l'allarme estrema destra che qui e là qualche candidato, e ci arriviamo, assolutamente terrificante, ha vinto, ma che questa vittoria si scrive in qualche modo in un senso comune, il caso britannico è quello più evidente, in cui destre, estreme destre, euroscettici, xenofobi e razzisti fanno il pieno di voti, definendo forse qualcosa di più di un voto protestatario, ma una svolta culturale profonda che potrebbe, e questo è l'interrogativo principe che c'è dal voto, avere delle conseguenze concrete, o potrebbe avere delle conseguenze concrete nelle politiche che l'Unione Europea prenderà nel momento in cui i nuovi gruppi si saranno formalizzati e si partirà in qualche modo con una nuova guida all'interno del Parlamento Europeo. Il caso britannico che cosa mostra? Mostra un partito conservatore al 30% che ha però annunciato che dentro il Parlamento di Strasburgo non siederà più, come è stato fino ad oggi, nel Partito Popolare Europeo, ma creerà un proprio gruppo su posizioni più euroscettiche, su posizioni più dure dal punto di vista delle richieste nazionali nei confronti dell'Europa, e sappiamo come dentro questi termini si sceni in realtà molto spesso lo sciovinismo, una larvata xenofobia, il tentativo di ridefinire in termini di identità nazionali i rapporti tra gli stati e le politiche europee. Un'altra formazione, United Kingdom Independence Party, è arrivata al 17% dei voti, un partito che chiede tout court l'uscita della Gran Bretagna dalla comunità europea, e sappiamo come gli inglesi, gelosi delle loro tradizioni e anche un po' gelosi e nostalgici della grandeur imperiale, abbiamo sempre gradito poco far parte, ci sono arrivati molto tardi alla politica europea. E infine questo risultato impressionante tra il 6,5% e il 7% del British National Party, che non è un partito di estrema destra, è un cartello elettorale di quelli che in Inghilterra si chiamano Tugs, più o meno i banditi, i criminali, cioè una roba che mette insieme dai paramilitari realisti dell'Irlanda del Nord alle bande Bonheads, reduci dalle esperienze di Blood and Honor e quant'altro, e i vecchi figuri che in questi anni sono passati nella storia del fascismo inglese con gruppi di tutti i tipi, compresi i suprematisti bianchi, il Ku Klux Klan britannico, eccetera, eccetera. C'è un partito nazista che in Italia ha rapporti con formazioni come Forza Nuova, che riesce a prendere il 6% dei voti, se non di più, perché lo scrutinio complessivo ancora manca col numero, e ovviamente questi voti li piglia in aree di forte radicamento del Labour, di forte radicamento proletario e operaio, periferie britanniche degradate e devastate, che spostano direttamente dal voto al centro-sinistra, chiamiamolo così, inglese, al voto per i nazisti. Ecco, questa. Sì, tra l'altro io, giusto per anche buttare là un paio di informazioni rispetto a quanto stavi dicendo sul British National Party, anche per raccontare un attimo chi sono i due eletti al Parlamento Europeo, che uno è il ormai noto anche in Italia Nick Griffin, che oltre ad essere il segretario del partito, poi in Italia è conosciuto come per essere stato l'amico e il protettore di Roberto Fiore e Massimo Morsello quando questi due ripararono a Londra e insieme all'aiuto dei servizi inglesi in qualche modo costruirono l'impero economico che fece da incubatore a Forza Nuova. E l'altro personaggio, invece, andandoci a sfogliare un po' Searchlight, quelle che sono anche le pubblicazioni inglesi che in qualche modo ne tracciano il profilo, è tale Andrew Bronz, che è l'opposto di quello che uno si aspetterebbe dalle operazioni anche soltanto di facciata che si fanno di solito in campagna elettorale, di cercare di dare una facciata appunto presente presentabile al partito, dal momento che è un personaggio che è passato negli scorsi anni, dagli anni 70 in poi, per praticamente tutte le formazioni xenofobe ed antisemite inglesi, e uno che fino a metà degli anni 80 chiudeva i comizi cantando lo slogan "If they're black, send them back", cioè se sono neri mandiamoli a casa, insomma. Sì, infatti diciamo che il definire come un partito di estrema destra il British National Party, insomma, è quasi un'esagerazione, perché stiamo veramente parlando di un partito di nazisti. Dicevo perché però l'esempio inglese è interessante, perché come vediamo cresce la destra tra virgolette conservatrice, e cresce a destra della destra una serie di formazioni, diciamo, di nouvelle droite, come potrebbero essere gli euroscettici, o di formazioni appunto ai limiti del nazismo come il British National Party. In realtà questo esempio è abbastanza seguito in tutta Europa, c'è cioè un clima dall'altra parte dell'Europa. A Budapest hanno avuto più del 50%, diciamo, gli emuli di Berlusconi, quel Fidesz guidato da, non chiedetemi esattamente la traduzione della sigla, insomma, ma è un partito, diciamo, conservatore, guidato da Viktor Orban, che invitava regolarmente Berlusconi in Ungheria per i suoi comizi, non ora, nelle occasioni precedenti è stato anche guidato, diciamo, il governo ungherese, e che è un partito appunto di nuova destra, che ha cercato di rappresentare, diciamo, i nuovi ceti cresciuti nel dopo 89 in quel paese, con posizioni però molto dure, molto, molto radicali rispetto alla tradizione, diciamo, dei partiti di ispirazione cristiana. Accanto a questo c'è il successo intorno al 17% di Jobbik, il partito che, come dire, è diventato tristemente famoso in questa campagna elettorale perché è vicino, usa praticamente come servizio d'ordine la cosiddetta Guardia Magiara, che recupera le divise delle croci frecciate, i collaborazionisti ungheresi del periodo tra le due guerre mondiali, che, inutile dirlo, insomma, ha fatto campagna contro gli immigrati, contro la comunità rom, parlando di deportazioni di massa e di quant'altro. Diciamo, questo è un po' il segnale. Che cosa potrebbe succedere? Ovviamente questa cosa diciamo, corrisponde un po' alla situazione europea. Per dire, in Belgio, dove c'erano le elezioni regionali oltre che le elezioni europee, il Vlaams Belang, diciamo, da sempre il cuore del nazionalismo nostalgico delle Fiandre, perde qualche voto, ma in realtà crescono una lista, De Becker, che è una lista anti-europea, una lista indipendentista su posizioni anche qui di estrema destra, con il risultato che nelle Fiandre oltre il 30% degli elettori vota comunque formazioni di questo tipo, per cui anche quando si sposta qualcosa, talvolta si sposta all'interno delle medesime famiglie politiche. Che cosa potrà succedere in Europa a questo punto? Ma intanto, diciamo, con l'arrivo degli eletti di Alleanza Nazionale nel Partito Popolare Europeo, il Partito Popolare Europeo che abbiamo conosciuto fin qui, cioè l'Internazionale Democristiana, cessa di essere tale per diventare un blocco delle nuove destre. Dall'est arrivano altre formazioni, citavo prima gli ungheresi, che anch'essi fanno parte, il Fidesz, del Partito Popolare Europeo. Diciamo che Silvio Berlusconi e quel modello di destra che si allea poi con i leghisti, che si allea poi con le destre radicali e xenofobe, perché questa è la Lega selletta, diciamo, nell'ambito delle politiche europee, cioè un partito razzista, è il modello. A destra di questo gruppo del Partito Popolare Europeo verrà fuori questo nuovo gruppo guidato da David Cameron, dai conservatori, a cui aderiranno sicuramente i conservatori della Repubblica Ceca, quelli che si rifanno più o meno al Presidente della Repubblica, Václav Klaus, che alla vigilia del voto aveva detto: ma cosa servono queste elezioni europee, perché tanto ci sono gli stati nazionali, per dare un po' il segno del clima, e che non si capisce bene che politica avranno, ma sicuramente avranno una politica di chiusura rispetto ad alcune aperture del Parlamento europeo, diciamo, termini che poi si traducono in genere nella chiusura della frontiera, in problemi ulteriori sull'immigrazione e quant'altro. Dopodiché c'erano due gruppi nel Parlamento europeo di estrema destra. Ma infatti quello che maggio che ci stai arrivando, quello che ti volevamo chiedere anche un po' a chiusura di questa cosa era quali gruppi, cioè che cosa sarebbe venuto fuori da questo aggregato appunto di seggi all'estrema destra, e quali potevano essere effettivamente i punti d'incontro che avrebbero trovato tra di loro, visto che sono partiti eterogenei, ma anche appunto con le sponde che tu hai già citato, dai conservatori a questa nuova incarnazione, diciamo, del Partito Popolare, e quanto questo blocco potrebbe poi andare a pesare effettivamente. Ma in realtà, diciamo, il gruppo di estrema destra della Destra Radicali, quello di Identità, Tradizione e Sovranità, dove era seduto anche Romagnoli e quelli della firma tricolore, non esiste più, perché era scoppiato una querella tra gli eletti della Grande Romania e Alessandro Mussolini nel periodo, diciamo, della caccia al rumeno in Italia. Potrà ricostituirsi, ma non si sa ancora chi ci arriverà. L'altro gruppo politico che sicuramente si ricostituirà invece è l'Unione per l'Europa delle Nazioni, dove sedevano sia la Lega che Alleanza Nazionale, dove comunque, anche se spostati i voti di AN dentro il Partito Popolare Europeo, confluiranno alcune di queste formazioni. Dopodiché c'è il gruppo degli indipendenti democratici, in realtà ben poco democratici, dove siede l'UKIP britannico e altri gruppi cosiddetti euroscettici. Il punto è che l'insieme di queste forze, di questi tre gruppi, più quelli del Partito Popolare Europeo, potrebbero per esempio allearsi occasionalmente con i liberali o allearsi, diciamo, cambiare a seconda delle proposte il proprio voto per far passare anche delle restrizioni alle politiche europee. Quel che è certo è che a questo punto il Parlamento Europeo diventa un'enorme vetrina per forze politiche che hanno tutte le differenze del mondo, lo ricordavi tu prima, insomma, dal laicismo degli olandesi anti-islamici fino al tradizionalismo religioso di buona parte dei partiti dell'est europeo, ma che sono uniti da una difesa dell'identità nazionale in senso retrivo, in senso xenofobo, e dall'odio per la diversità. Diciamo che vince nel segno della lotta alla differenza culturale, all'immigrazione, una visione assolutamente chiusa dell'Europa. È vero che il Parlamento europeo decide abbastanza poco, fortunatamente, delle nostre vite, ma può indirizzare molto le politiche nazionali. Finisco con un esempio. È di questo periodo la polemica internazionale sulle scelte di un ministro come Maroni in termini di immigrazione. Bene, se dall'Europa, invece che dirgli che forse le sue scelte sono per quello che vale, cioè parliamo di segnali politici e simbolici, che le sue scelte sono fuori, diciamo, dalla cultura democratica e dalle leggi europee, arrivassero dei segnali che gli dicono che non solo le sue scelte sono fatte bene, cioè quelle magari di sparare o di rimandare a mare chi arriva dal mare verso l'Italia, ma sono il simbolo di quella che dovrà essere la politica dell'immigrazione dell'Europa del futuro, beh, diciamo, almeno sul piano simbolico e dei segnali qualcosina sarà già cambiato. Va bene, noi in realtà nell'ultimo minuto ti stiamo sentendo abbastanza spizzichi e bocconi, quindi non so se tu hai qualcos'altro da aggiungere oppure ci possiamo riaggiornare anche prossimamente. Sì, io vi sento bene, comunque a questo punto vi lascio alla resta della trasmissione. Perché ti abbiamo sentito, sei stato comunque estremamente esaustivo, quindi ti ringraziamo e ci risentiamo. Ciao. Les suivent comme des moutons. Mais t'as le con. Vieille France degli Oasis Crew che ci introduce alla seconda parte, anche se evidentemente seconda parte che sarà un poco sacrificata dal momento che sono già le 12.53, ovvero la parte che riguarda un po' più casa nostra dopo questa panoramica sul Parlamento Europeo. Di tutto questo ne andiamo a parlare con ben due voci. Una dovrebbe essere in collegamento telefonico in questo momento, il nostro redattore del Nord-Est. Ci senti? Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. L'altro invece è un ospite che abbiamo in studio oggi, un compagno che ci andrà magari a raccontare un po' più nello specifico quanto si è mosso nel suo territorio, in quel di Bergamo. Allora, la riflessione che in qualche modo potrebbe introdurre e traghettarci dal Parlamento Europeo e fino al, appunto, ai risultati di casa nostra è una riflessione abbastanza scontata, in verità, che facciamo da tanti anni, che però evidentemente, se continua a dimostrarsi vera, qualche fondamento avrà, ovvero che diversamente dal resto d'Europa, da noi la destra radicale di fatto continua a prendere percentuali da prefisso telefonico a vantaggio ovviamente della Lega Nord, che essendo un partito assolutamente nel solco di tutti questi partiti xenofobi che si sono ritrovati con questi risultati eclatanti nel resto d'Europa, la Lega Nord che anche in Italia, che in Italia anche quest'anno, anche a questa tornata, ha in qualche modo accresciuto ulteriormente i suoi consensi, di fatto togliendo acqua e dove nuotare a tutti i vari partiti e partitucoli, e di fatto facendo un passo ulteriore rispetto al resto d'Europa, ovvero comunque parliamo di un partito che è già nel governo e che in qualche modo sui temi quelli che più li premono, ovvero quelli dell'immigrazione e della sicurezza, di fatto detta già le linee del governo. Adesso io ti lascerei un po' la parola per andarci a raccontare un po' nello specifico quanto si è agitato anche nel tuo territorio, o comunque a nord. Beh, diciamo sì, come hai detto giustamente te, come potete immaginare, insomma, qui che è una delle roccaforti della Lega, il Veneto, è andata oltre ogni più rosea aspettativa degli stessi leghisti. Qui c'era anche in ballo questa piccola querelle elettorale sulle regionali dell'anno prossimo, in cui la Lega, come avete letto magari sulla stampa nazionale, pretende la presidenza della regione come candidatura alle prossime elezioni, mentre invece Forza Italia vorrebbe riproporre un suo candidato, l'attuale governatore Galan. Quindi diciamo c'è stata anche questa polarizzazione tutta legata alle future elezioni regionali, che ha insomma portato anche l'elettorato tradizionale della Lega a darsi molto molto molto da fare per fare una prova di forza, che infatti è arrivata a quasi al sorpasso, insomma c'è un sostanziale pareggio, cioè il PDL è un po' in vantaggio nel Veneto, ma si attesta comunque su una percentuale vicina al 30%, mentre invece la Lega lo tallona con un 28,7%, quindi da questo punto di vista un grosso exploit, che poi si riproduce nelle province e nelle tante amministrative che hanno caratterizzato il Veneto, e anche nelle città, con anche percentuali molto molto maggiori e tantissimi sindaci di provenienza leghista che vincono o stravincono. Quindi sì, la riflessione da fare è un po' quella che dicevi te: queste erano soprattutto le prime elezioni in cui si metteva sostanzialmente così alla prova lo schieramento della PDL, in quanto PDL, perché non c'era neanche più un minimo riferimento ai due partiti che l'hanno fondata, quindi si poteva prevedere, e penso che fosse stato nei calcoli anche di gran parte della destra radicale, intendo Fiamma o Forza Nuova, una fuoriuscita di voti dell'Alleanza Nazionale, che invece è stata completamente, se c'è stata, intercettata dalla Lega Nord, che come giustamente dicevi, nonostante venga a essere un partito di governo da tanti anni, è annoverabile tra le destre più becere di questo continente, e resta un po' una delle tante anomalie di questo cosiddetto compagine berlusconiana che ci troviamo un po' ad avere a che fare da questi 15 anni ormai. Assolutamente. Io non so, siccome i tempi sono abbastanza stretti, se tu hai qualcosa da aggiungere, oppure se chiediamo di intervenire anche all'altro nostro ospite, che magari ci può andare a fare un po' raccontare un po' uno spaccato di una delle province che in qualche modo si è riconfermata, come già era tendenza negli ultimi anni, come una delle roccaforti della Lega, ma in qualche modo anche un laboratorio per la destra di questo paese, per la destra securitaria di questo paese. No, io direi chiuderei semplicemente con una piccola riflessione, che è una partita legata a quello che dicevo prima, cioè le regionali dell'anno prossimo. Cioè l'unica possibilità per la destra radicale, quantomeno di questi territori, ma io credo che possa essere una possibilità che non è così remota anche su altri terreni nazionali, è quella di riprodurre lo schema di Verona. Cioè lo schema in cui una Lega esprime un candidato forte e si parla per le prossime regionali, proprio non a caso del sindaco leghista, e che in questo senso possa essere molto permeabile a partiti come Fiamma o Forza Nuova, che dimostrano una pochezza elettorale totale, ma che per la biografia, per il background culturale degli esponenti leghisti di questi territori, ma penso si possa dire della Lega Nord, insomma, possono avere ancora delle carte da giocarsi. Sì, questa prospettiva abbastanza fosca ci inquieta abbastanza. Noi appunto, allora, come annunciamo, adesso diamo la parola all'altro ospite per raccontarci, dal momento che parliamo di cose inquietante sicuramente è stato anche il risultato nel Bergamasco, per l'appunto. Quindi ciao a tutti e tutte. Le elezioni provinciali e comunali a Bergamo restituiscono effettivamente uno spaccato piuttosto desolante. Il PDL e la Lega Nord, in modo peraltro non certo imprevisto, sfiorano assieme il 60% dei consensi e dimostrano che un cittadino su tre, quindi non un elettore su tre, ma un cittadino su tre nella provincia di Bergamo vota a destra, visto che a Bergamo, come in provincia, il centrodestra ha fatto a meno, come poi del resto a livello nazionale, del centro e dell'UDC, che al contrario del passato a Bergamo non sono più una presenza forte ed egemone. Io mi sposterei subito sulla città, cioè la provincia, diciamo, va alla Lega Nord e non è nulla di nuovo, se non che questa volta il presidente della provincia è un leghista doc, quindi una differenza rispetto al passato che, seppur sostenuto dalla Lega, il presidente della provincia era stato comunque un indipendente. La Lega a Bergamo è un fenomeno interessante, radicatissimo, molto meno sguaiato rispetto a quella che è la Lega Nord a livello nazionale, nel senso che nella provincia di Bergamo si pone il problema della gestione del potere per la Lega, cioè la Lega è una delle forze di governo stabile dei territori. Quello che adesso si appresta ad essere anche il PDL a livello bergamasco, all'interno del cui partito in realtà Alleanza Nazionale gioca il ruolo determinante di quadri dirigenti e classe dirigenti in grado di governare il territorio, e si presenta con un progetto politico che dà l'idea che questo governo del territorio sia un progetto a lungo termine. È un PDL ripulito, un'Alleanza Nazionale assolutamente ripulita a doppio petto, ma è anche Alleanza Nazionale, il PDL, un PDL che ha espresso un sindaco che è Franco Tentorio, che è un missino doc, è un missino storico, un dirigente storico del Fronte della Gioventù, poi dell'MSI ed ora del PDL. Un'Alleanza Nazionale che, come si diceva prima, a Bergamo è anche un laboratorio culturale in qualche modo, è determinante il lavoro che ha svolto, sarà curioso vedere che ruolo svolgerà ora in questa nuova amministrazione Enzo De Canio, un personaggio il cui nome è magari poco conosciuto, ma che in realtà è uno dei, più importanti intellettuali della destra radicale della Lombardia. Fu responsabile della cultura nella precedente amministrazione di centrodestra, ora si vedrà che tipo di ruolo rivestirà in questa amministrazione, che è un'amministrazione di destra, cioè una giunta di destra che fa meno del centro, che non ha dovuto allearsi con nessuno. E quello che si può dire di Enzo De Canio, che è molto interessante visto che è responsabile cultura del PDL adesso, è che di fatto è l'anello di congiunzione tra tutte le anime della destra radicale a livello territoriale e Alleanza Nazionale. In particolare noto i fatti del 28 febbraio della parata militare di Forza Nuova, per cui ora è partita un'inchiesta con 41 indagati per manifestazione usuale del disciolto partito fascista. Forza Nuova che, a differenza di ciò che accade nel resto d'Italia, più che un ruolo di attività squadrista sul territorio ed aggregazione di gruppi più o meno informali finalizzati ad attività di tipo squadrista, svolge un ruolo di formazione quadri, preparando un gruppo di giovani che è giovanissimo, ma allo stesso tempo improntato all'apprendimento e alla formazione dei quadri, peraltro totalmente contingente ad Alleanza Nazionale, al PDL, per cui la sede che occupa Forza Nuova Bergamo è quella del MIS con Rauti, che ora è confluito nel PDL, per cui indirettamente è un regalo, una concessione del PDL. E lo stesso responsabile provinciale di Forza Nuova, Dario Macconi, oltre ad essere figlio di uno dei più importanti dirigenti, già coordinatore provinciale di Alleanza Nazionale nella provincia di Bergamo, che sarebbe Gianpietro Macconi, è anche membro di Alleanza Nazionale, di Alleanza Cattolica, che ha scalato il PDL a Bergamo. E io adesso non voglio farla troppo lunga, però ecco, sarebbe bello spendere due parole su questa formazione Alleanza Cattolica, che gioca un ruolo determinante specialmente all'interno del PDL, specialmente in una città bianca come Bergamo, con la presa e anche le opportunità di inserimento sociale, culturale, politico ed economico che ha la Chiesa sul territorio. E un dato soltanto per farla breve: questa organizzazione tradizionalista cattolica, che è Alleanza Cattolica appunto, ha espresso i dirigenti più alti, a livello più alto del PDL a Bergamo e di Forza Nuova a Bergamo. Ma Dario Macconi, che è appunto il segretario provinciale di Forza Nuova Bergamo, è stato anche responsabile tutor per la formazione dei quadri del PDL quando già era segretario provinciale di Forza Nuova. Ecco, questo per dire anche la compenetrazione, quello che è il progetto che emerge, no? Che potremmo appunto sintetizzare con la definizione di destra plurale che oggi si prepara a governare la città totalmente senza bisogno di mediazioni, e che presenta, come dicevo prima, un progetto di lungo respiro. Va bene, noi sicuramente ne dovremo ritornare a parlare di Bergamo. Tra l'altro ci piacerebbe anche presentare da questi microfoni il libro bianco che è stato prodotto proprio in questi giorni in quel di Bergamo riguardo ai fatti che ricordavi tu delle cariche agli antifascisti il giorno della manifestazione di Forza Nuova. Io non so se tu hai altro da aggiungere o se cominciamo a fare i saluti. Ok, perché come giustamente ci segnalano anche al di là del vetro, sono le 13.07 e abbiamo rubato già ben 7 minuti al GR di Radio Onda Rossa. Les mots m'agitaient sont lâchés dans la file. Les murs nous observent pendant qu'on s'approchait du grand vide. pas sur les toits. Tes histoires, les murs ont des oreilles et te tapent sur les doigts. Malgré la joie qu'exprime. E mentre la radio si popola di strane facce, alle 13.08 si conclude così maldestra la trasmissione antifascista di Radio Onda Rossa. L'appuntamento per tutte e tutti con questa trasmissione è come di consueto per martedì prossimo alle 12.15 circa, speriamo un po' più puntuali di oggi, mentre per riascoltare le scorse puntate il blog maldestra.noblogs.org. Ciao a tutti e a tutti. Horizon différent, direction commune sul canard méditerranéen. Les murs de ma ville paraît qu'ils sont insalubres, mais nous on les aime comme ça, alors laissez-nous un salut. MARS, U de Zelle, deuxième ville de France, deuxième ville de quoi? NA, ici c'est le bled, la ville du soleil, port de l'Orient, hexagone dans l'esprit, même à son contre-courant, là où le pastaga et les matchs de foot sont telle une religion, font tant de passionnés unissent les gens. On l'aime notre ville, aux 2600 ans d'histoire, des fossés en grec, ville d'accueil, d'échange et d'espoir, que personne ne brusque, non, on prend le temps de vivre, dédié à tous ceux qui ressentent les vibes, les murs de ma ville, les murs de ma ville.